Il principe di Galles è morto ed è Filippo che comunica la notizia ai re cattolici. Il giorno dopo il lutto avvolge la città. Per 9 giorni siamo circondati dai vestiti neri della corte. Filippo si rifugia nel rosa della mia pelle e faccio fatica a fargli lasciare il letto per accompagnarmi alle messe e ai responsoriali. Come posso sopportare tanto bigottismo, tanti preti e preghiere, mi domanda. Che cosa c'è nell'animo dei miei conterranei che li porta a pensare con tanto timore alle fiamme dell'inferno? Preoccupata per lo stato d'animo di mio marito, parlo con i miei genitori e concordiamo che, mentre io e Filippo aspettiamo che le Cortes di Aragona ci ricevano per darci l'investitura di eredi, un gruppo di nobili prenderanno il principe sotto la loro tutela e si incaricheranno di sollevargli il morale, mostrandogli gli splendori e le opportunità del suo nuovo regno. La corte lo vezzeggia, si impegna a farlo divertire, prende dimestichezza con le corride, pratica l'arte della falconeria, partecipa a tornei alla moda spagnola, si unisce alle battute di caccia di mio padre nei boschi della serra, si reca nei giardini di Aranjuez a giocare a palle e non rientra se non quando il dolore si diluisce nella vita quotidiana. Con il suo particolare fascino, Filippo ottiene la mia complicità per organizzare in segreto, in onore dei miei genitori, un banchetto in stile fiammingo. In quel banchetto, con cinghiali, maiali e cervi, dove sotto i candelabri carichi di centinaia di candele aromatiche scorreva il miglior vino della Borgogna, immaginai il mio regno futuro come un'amalgama del meglio delle Fiandre e della Spagna. Un giorno avrei presieduto una corte che sarebbe stata la sintesi della tolleranza e della cultura d'Europa. Mi immaginai di regnare sulla Spagna con i miei figli e con Filippo. Saremmo stati una coppia felice, innamorata, sotto il cui trono si sarebbero riunite non solo le vecchie casate, ma anche le nuove colonie dei vasti territori americani, che sarebbe toccato a noi esplorare e governare. L'ingenuità dei miei sogni colorò tappeti, tende, vivande e volti, e mi sembrò che tanta grazia e bellezza mi avrebbero protetta da intrighi e sventure. Più tardi, sola con il mio sposo, suonai il clavicordo e ballai per lui le danze che mi avevano insegnato le schiave. Ma dopo aver fatto l'amore, quando sdraiati sul letto ripassammo i particolari della festa, lui cominciò improvvisamente a ridere e a beffarsi dei miei conterranei, delle maniere rozze di questo duca o di quel marchese, dell'odore delle barbe dei preti e di quanto era grasso il cibo, senza fantasia. Non aveva mai apprezzato tanto le Fiandre come da quando stava in Spagna, disse. Stava facendo una grande fatica ad attendere che le Cortes di Aragona ci ricevessero per accreditarci come eredi. Pensava che il ritardo fosse un trucco di mio padre per obbligarci a rinviare la nostra partenza. Il re voleva che la cerimonia si svolgesse nel bel mezzo del conflitto della Francia con la corona aragonese, costringendolo così a schierarsi contro il re di Francia. Dal vescovo di Besançon aveva saputo che le tensioni per la divisione di Napoli erano sul punto di provocare un'altra guerra tra il regno di Aragona e i francesi. Tuo padre vuole obbligarmi a tutti i costi a inimicarmi Luigi. Non sa che la mia fedeltà non è a disposizione della Spagna. Il vescovo di Besançon ti consiglia male, Filippo, gli dissi fingendo che le sue parole non mi avessero colpita. Parli contro te stesso, sarai il re di Spagna e abbracciare la causa spagnola è quello che ora ti spetta. La causa spagnola la deciderò io, al momento opportuno. Non c'è alcuna ragione per ereditare dissapori che servirebbero soltanto a isolare le Fiandre dai loro alleati storici. Non devo seguire la politica dei tuoi genitori e te lo dimostrerò. Rimanderò Henri de Berg a Bruxelles. Mi dà fastidio la sua compiacenza e il suo servilismo verso tutto ciò che è spagnolo. Come agente di Castiglia e di Aragona mi basti tu. Tu, profumi di buono, disse mettendo la testa tra i miei seni. Tu sei il mio fiore castigliano. Tu mi hai dato i figli più belli. Tu sei la mia unica Spagna. Filippo sapeva come spegnere la miccia prima che la fiamma arrivasse alla polvere ed esplodesse. Come potevo resistere a parole tanto belle? Per lui era importante sentire che deteneva il potere di fronte a me. Non riusciva ad accettare l'idea che io sarei stata la regina e lui il principe consorte. Questa resistenza mi obbligava a stare attenta a non offenderlo, insinuando che le mie parole potessero avere più peso delle sue. Lui era dell'opinione, per esempio, che gli aragonesi potevano evitare di cambiare la loro legge salica, aggiudicando a lui il regno. Il fatto che discutessero tanto a lungo di come metterlo da parte feriva il suo orgoglio. Lui non aveva la perspicacia di mio padre per acquisire autorità regale e andare al di là delle formalità dei suoi titoli. Io, da parte mia, mancavo della determinazione di mia madre per fargli fronte. Temevo i suoi attacchi, la crudele arroganza che ostentava quando si sentiva insicuro, i suoi repentini cambiamenti d'umore mi mettevano in ansia, spendevo le mie energie per calmarlo, per mantenere intatto il suo orgoglio, benché fosse ben disposto ad accettare il destino che la vita ci aveva intempestivamente assegnato. Il giorno dopo, prima di alzarci, ricorsi alle malizie della passione e alle carezze per chiedergli di non mandare via Berg e per insistere che soprattutto a mio padre interessava accelerare la cerimonia in Aragona. Gli chiesi di non ascoltare chi gli suggeriva il contrario. Gli ricordai l'apprensione e la cortesia del suocero quando era venuto a trovarlo al suo letto d'infermo a Olias. Lodai le attenzioni di Berg nei miei riguardi e lo pregai di calmare la sua impulsività. Le mie manovre furono efficaci e per alcuni mesi desistette dal suo proposito. Arrivata l'estate, però, sembrò che il sole fosse entrato nel corpo di mio marito e lo avesse inaridito togliendogli l'acqua che poteva raffreddare il suo temperamento. Mi trattava come un despota, si prendeva gioco della mia intelligenza e poche ore dopo mi abbrancava in un angolo della mia alcova e affermava che non si stancava mai della mia bellezza. La rovente e arida estate affliggeva i fiamminghi come una piaga, si spegnevano le risa e i balli nel sopore del mezzogiorno e dei pomeriggi senza brezza. Sarà stato agosto quando l'imperatore Massimiliano d'Austria scrisse a Filippo incitandolo a collaborare con i miei genitori. Invece di ottenere l'effetto desiderato, la lettera lo fece entrare in uno stato di estrema agitazione. Filippo aborriva le intromissioni di mio suocero, ma nello stesso tempo niente gli era gradito più della sua approvazione. Accusò i miei genitori di diffondere falsità e di complottare per metterlo in cattiva luce con suo padre, e dato che non osava accusarli direttamente, se la prendeva con me insultando la Spagna. Nonostante le mie proteste, ordinò il ritorno immediato nelle Fiandre di Henri de Berg e dei membri della corte favorevoli alla Spagna. Mia madre, che attribuiva poteri magici alle armi del mio sesso, mi pregò di intercedere. Le dissi che un mio intervento era riuscito a ritardare quella decisione di vari mesi, ma lei insistette dicendo che se Filippo rifiutava di ascoltarmi era perché io non trattavo il caso con sufficiente energia. Nel palazzo di Toledo la leggenda dei miei incantesimi sessuali era oggetto di scherno presso la corte. Come negare la passione verso mio marito? Si diceva, se di notte nel silenzio dei corridoi non c'era chi non avesse udito i miei gemiti di piacere. Inoltre il mio corpo non mentiva, ero di nuovo incinta. Il fatto che mio marito continuasse a fare l'amore con me quando la mia gravidanza già andava verso i 5 mesi era la prova sufficiente di appetiti insaziabili che non obbedivano nemmeno ai più elementari dettami di una cristiana moderazione. Tutto questo portava mia madre a pensare che io possedessi il più antico potere di persuasione delle donne della specie e quindi fossi in grado di ottenere quanto mi proponevo. Amareggiata di fronte all'impossibilità di farle capire la mia difficile situazione, decisi infine di rivelarle il rovescio della medaglia del mio paradiso notturno e di parlarle dei contrasti con mio marito. Non so quanto credito abbia dato alle mie parole, ma alla fine, di malavoglia e senza convinzione, desistette dal rimproverarmi e prese la decisione di parlargli. Fu inutile. Non solo si scontrò come me con la caparbietà fiamminga, ma quella conversazione la portò a temere e a disperare per il futuro della Spagna che con tanta cura lei stava configurando. Subì un colpo molto duro nel verificare che dopo tutti i suoi sforzi la fedeltà di suo genero era ancora riposta al di là dei confini della Castiglia e dell'Aragona. Né lei né io fummo in grado di valutare la rabbia occulta che spingeva Filippo a contraddire suo padre. Probabilmente fu allora che mia madre decise di affrontarlo e di obbligarlo a impegnarsi chiaramente nel mandato che avrebbe ereditato. Sulla bilancia avrebbe anche messo l'amore che Filippo e io ci dimostravamo. In quello stratagemma io sarei stata la vittima propiziatoria, l'Isacco di Abramo o l'Ifigenia. Il caldo che provocava disastri alla salute dei fiamminghi cospirò con il destino per aggravare la situazione già tesa. Una notte, verso la fine dell'estate, l'arcivescovo di Besançon, François de Buisledin, ebbe una sincope. Bussarono alla nostra alcova richiedendo la presenza di Filippo, che si vestì e uscì di corsa. Alcune ore dopo rientrò con il viso sconvolto, strappandosi di dosso i vestiti. Lo L'odore della morte lo soffocava, disse. Sembrava un bambino sconsolato. Si lamentava e piangeva. Più che suo padre, lo aveva allevato Bisleden. Era suo tutore e consigliere fin dalla più tenera infanzia, ma il suo amore non era valso a evitargli la morte. La pena e la rabbia lo facevano ululare di dolore, lo facevano sragionare e continuava a ripetere che Bisleden era stato avvelenato. Gli spagnoli. Era colpa degli spagnoli, avevano assassinato il più leale e sagace dei suoi consiglieri. Agitandosi come un pazzo, mi gridava che era opera di mio padre, che si sbagliava se credeva di obbligarlo in questo modo a rompere la sua amicizia con la Francia. Più io cercavo di calmarlo, più si infoiava. Mandò a chiamare maggiordomi, ciambellani e ordinò loro di prepararsi a partire. Lui non avrebbe aspettato che lo uccidessero, mi diceva. Non sarebbe rimasto a Toledo, saremmo andati a Saragozza e anche senza l'investitura delle Cortes di Aragona saremmo partiti per la Francia al più presto. Approfittai della confusione che regnava per mandare a mia madre una lettera a Madrid informandola dell'accaduto e la affidai a uno dei miei migliori cavalieri. Quando ritornai da Filippo, aveva ordinato alla guardia castigliana di lasciare il palazzo e l'aveva sostituita con soldati fiamminghi. Come un indemoniato, si diresse poi in cucina e scacciò i cuochi. Ci sarebbero voluti alcuni giorni per imbalsamare il cadavere di Bisleden e per prepararci a partire, e intanto non si sarebbe corso alcun rischio. Io non potevo fingere la stessa angoscia di Filippo di fronte alla morte dell'arcivescovo, né commisi l'errore di negare decisamente che mio padre potesse esserne coinvolto. Rimasi in silenzio. Filippo avrebbe potuto interpretarlo come meglio gli pareva. Mia madre rispose al mio messaggio con un altro suo diretto a Filippo. Esprimeva grande dispiacere per l'improvviso decesso dell'arcivescovo, ma ingiungeva a Filippo di restare in Spagna e di rinunciare alla sua idea di ritornare nelle Fiandre attraverso la Francia. Le ostilità erano riprese e avremmo potuto diventare ostaggi di Luigi XII. Mio padre, da parte sua, mandò un emissario con la notizia che le Cortes dell'Aragona erano finalmente pronte per portare a termine le cerimonie del nostro giuramento come eredi della corona. Prima di partire per Saragozza, Filippo scrisse a suo amico, il re di Francia, mettendolo al corrente della situazione e chiedendogli udienze e garanzie che non ci avrebbe presi come prigionieri di guerra. Luigi rispose con affabilità: non dovevamo avere nessun timore di quella natura e per dimostrarcelo stava mandando 10 nobili di Francia a Bruxelles in pegno della sua parola fino al nostro sicuro e felice ritorno nelle Fiandre. Hai visto, Giovanna? Invece di affidarmi la missione di negoziare una tregua con i francesi, approfittando della stima che Sua Altezza nutre per me, i tuoi genitori vorrebbero obbligarmi a rinnegare i miei legami di amicizia. È questo che li preoccupa. Sanno bene che non corriamo nessun pericolo. È qui che sono minacciato. Per questo niente e nessuno mi obbligherà a cambiare idea. L'ho promesso al mio amato mentore sul letto di morte. Saragossa ci ricevette con la stessa pompa e la stessa moltitudine di Toledo. Gli stendardi dei regni di Aragona, Valenza, Sicilia, Maiorca e Sardegna e della contea di Barcellona ondeggiavano al vento tra migliaia di dignitari schierati per i baciamano con cui ci avrebbero espresso il loro rispetto e la loro sottomissione. Suonavano le campane e si lanciavano in volo colombe. Dai balconi, sotto cui passava il nostro corteo a cavallo, pendevano nastri colorati. L'investitura delle Cortes del Regno d'Aragona, però, non era incondizionata. Mi accettavano come regina, ma se fossi morta, Filippo non sarebbe stato re. E inoltre, se mio padre si fosse risposato in seguito alla morte di mia madre e avesse procreato un erede, la corona d'Aragona sarebbe toccata a suo figlio. Poco dopo la cerimonia, mio padre fece ritorno a Madrid, preoccupato per le febbri misteriose che avevano prostrata mia madre. Prima di partire, chiese al riottoso Filippo di presiedere le restanti solenni cerimonie delle corti. Il mio vanitoso principe interpretò l'ossequio come un gesto di conciliazione e di riconoscimento della sua posizione di futuro re. Eravamo entrambi ingenui. All'inizio della cerimonia, seduta al suo fianco sotto il baldacchino della sala capitolare, guardai con orgoglio e tenerezza Filippo con il mento alzato, il petto in fuori, lo sguardo che valutava la gente che affluiva. Come me. Anche lui stava maturando e tentava di presentarsi come modello per le statue che sarebbero state erette in suo onore. Il segretario si alzò per leggere l'ordine del giorno. Ci accorgemmo allora della trappola tesa da mio padre. La seduta presieduta da Filippo si doveva occupare di approvare i sussidi straordinari necessari a finanziare la guerra contro la Francia. L'agitazione si diffuse tra il gruppo di visitatori fiamminghi. Sentii il suono sgradevole dei commenti e dei mormorii che puntavano verso di me come puledri senza briglia in un suono agitato. Pensavano che io fossi complice di quella manovra. Filippo venne galantemente in mia difesa, si alzò e, mostrando la calma e la maestà di un sovrano, si voltò verso di me per farmi una riverenza e chiedermi il permesso di dare inizio alla seduta. Poi, come avrebbe fatto un re spagnolo, affrontò gli argomenti in programma. Sollievo, timore. Non saprei dire quale sentimento predominasse in me, oltre all'idea che le acque potevano in qualsiasi momento modificare il proprio corso e sommergermi. I vestiti mi si stringevano addosso, togliendomi il respiro. Fu la prima volta, ricordo, che obbligai la mia mente a fuggire. Mentre la seduta proseguiva, vidi il clavicordo della mia infanzia con le decorazioni ambra e arancione dipinte sul legno. Vidi i tasti di avorio, lo spartito con la musica di Josquin des Prez, le note nere, e a occhi aperti, con le mani appoggiate sui braccioli, ritornai ai miei 8 anni e lessi la musica. Nella memoria le dita mi riportarono nota dopo nota la melodia. Il mio corpo si inondò di accordi e la tensione nella sala capitolare si sciolse. Approvati i suffragi, Filippo chiuse la seduta. L'incantesimo si ruppe, respirai profondamente, tranquilla. Il mio sangue scorreva in me calmo e sereno quando lasciammo la sala. Dopo quell'incidente ebbi la certezza assoluta di come procedere. Cessò l'andirivieni delle mie alleanze, decisi di anteporre il mio amore di sposa all'amore filiale. Qualsiasi dissapore ci fosse tra mio marito e me, il nostro matrimonio doveva essere protetto con maglie d'acciaio. Al di là del fossato della nostra discordia si ergeva la fortezza in cui abitavano i nostri figli. Anch'io volevo ritornare nelle Fiandre, avevo nostalgia delle mie creature, immaginavo le loro giornate, le loro notti e mi dolevano le dita dalla voglia di accarezzarli. Perché negare che Filippo potesse negoziare la pace con Luigi XII? Lui non era succube dei rancori della Spagna e avrebbe avuto la mente più chiara e una maggiore disposizione all'equilibrio. La trappola di mio padre mi ricordò che nella mia famiglia gli interessi del potere erano sempre stati più forti dei vincoli di parentela. Quella notte offrii a mio marito la mia fedeltà, promisi di fare causa comune con lui e di appoggiare il suo ritorno nelle Fiandre attraverso la Francia. La rabbia che teneva Filippo altero e distante, con il volto contratto e le mani strette a pugno, si spiegò come la vela di una barca. Il suo sguardo caustico e sardonico si trasformò nell'abbraccio sensuale e complice che mi aveva sedotta. Lui sperava che stessi al suo fianco, disse. Non mi sarei pentita della mia decisione, lui non mi avrebbe ingannata e alla fine i miei genitori avrebbero dovuto riconoscere che il loro autoritario modo di agire non sempre otteneva i migliori risultati. Mi dedicai con energia ai preparativi del nostro viaggio, diedi l'incarico di procurarmi nuove selle da portare in regalo ai miei bambini, ordinai di ricamare mantiglie per mia cognata Margherita e per altre dame di Bruxelles. Feci anche confezionare nuovi vestiti più ampi per il mio soggiorno temporaneo presso la corte francese, dove Filippo e io avremmo concluso l'accordo matrimoniale di Carlo e Claudia, al quale finalmente acconsentii. Le comodità disposte per me nella carovana richiedevano un'attenzione particolare, dato che la mia gravidanza andava per i 7 mesi. Di solito queste cose mi preoccupavano poco, ma questa volta volevo assicurarmi di non partorire troppo presto, per evitare l'inconveniente di dare alla luce un figlio francese. La notte prima della partenza feci un sogno. Assistevo di nuovo a un incendio, quello che avevo visto quando ero piccola e i miei genitori erano accampati nei pressi di Granada. Per anni avevo conservato il ricordo delle tende che ardevano nella notte della serra, del fuoco che marcava la pelle del cielo con i suoi effimeri segni, delle sentinelle trasformate in torce che fuggivano lasciando dietro di sé un nauseabondo odore di carne bruciata. Nel sogno io cercavo inutilmente i miei figli tra le fiamme, sentivo il loro pianto lontano, ma quando mi avvicinavo i loro lamenti si trasformavano nelle urla dei condannati al rogo degli auto da fè. Mi svegliai angosciata e saltai giù dal letto come se fuggissi dal demonio. Mi imbattei in Filippo che veniva a comunicarmi che mia madre aveva mandato un messaggio per chiedergli di andare a Madrid. La regina voleva vederlo prima che partisse e lui non poteva dire di no, soprattutto a causa dello stato di salute di lei. Sarebbe andato in fretta viaggiando giorno e notte per non perdere tempo e sarebbe ritornato presto. Mi baciò con dolcezza, il ventre gonfio, la fronte, la bocca. E se ne andò. Rimasi a letto tutto il giorno. Tutte le volte che aprivo gli occhi sentivo il pianto dei miei figli. Era strano che mia madre avesse mandato a chiamare Filippo e non me. Quando Ferdinando arrivò e comunicò alla regina le clausole concordate con le Cortes d'Aragona, Isabella temette per l'unità della Spagna alla quale aveva dedicato la vita. Non le piacque sapere che morta lei, se Ferdinando avesse contratto un altro matrimonio e avesse generato un erede, Giovanna sarebbe stata privata della corona d'Aragona. Pensò che gli aragonesi facevano pagare molto caro a sua figlia la debolezza di suo marito per i francesi e considerava inaccettabile che dopo aver sopportato le infedeltà di Ferdinando, pensando all'eredità dei suoi figli, le velleità di un principe straniero mettessero in pericolo il suo mandato. Se Filippo amava Giovanna, doveva rinunciare alla sua amicizia con Luigi e rimanere in Spagna. Lo aveva mandato a chiamare per parlargli con franchezza e fargli sapere che rischiava molto lasciandosi trasportare dai suoi impulsi. Ma non lo convinse. Filippo non cambiò idea. Replicò che poteva fermare la guerra e guadagnare così il favore degli aragonesi. Menzionò anche gli obblighi verso i suoi sudditi che minacciavano di ribellarsi se lui non fosse ritornato e aggiunse che suo padre aveva bisogno di lui in Germania. No, i miei genitori non lo convinsero. Passò 3 giorni a Madrid ribadendo la sua decisione, discutendo con mio padre e mia madre, che però non riuscirono a dissuaderlo. E allora la regina giocò la sua ultima carta. Ero io. Dato che Filippo non sentiva ragioni, gli disse: poco poteva fare lei per fermarlo. Non avrebbe ammesso, però, che la mia vita e quella di mio figlio fossero in pericolo a causa della sua ostinazione. Non mi avrebbe permesso di attraversare i Pirenei in pieno inverno. Se lui avesse deciso di non andarsene senza di me, avrebbe dovuto aspettare fino a quando la mia salute, la guerra, il clima mi avessero consentito di ritornare nelle Fiandre. Mia madre tentava, come ultima risorsa, di insinuare in Filippo l'idea che poteva perdermi, che considerasse che non solo si giocava la corona, ma anche il matrimonio. E la regina ottenne che per la prima volta Filippo esitasse, ma alla fine non riuscì a fargli cambiare i piani. 12 giorni dopo la partenza di Filippo per Madrid, la vedetta dell'Alcazar avvistò un drappello di cavalieri. Mi sentii immediatamente più sollevata, ma quando mi affacciai alla finestra per guardare i nuovi arrivati, non vidi Filippo. Era il marchese di Villena che mi portava un messaggio. Il marchese si presentò, molto galante, di bell'aspetto. I suoi occhi scuri, sotto le sopracciglia ben disegnate, mi esaminarono senza nascondere l'ammirazione. Si scoprì il capo. Io non ero molto disponibile ai convenevoli. Gli chiesi di dirmi subito la ragione per cui Filippo era rimasto a Madrid. Vostra Altezza, vostro marito vi aspetta ad Alcalá de Henares. Ha mandato me a scortarvi fin lì. Ho ordini di fare il viaggio a tappe perché non vi stanchiate, ma quello che deve dirvi lo sa solo lui. Vi supplico di dirmi se la regina sta bene, chiesi impaziente, sospettando che fosse grave o in agonia. Il marchese però si affrettò a rassicurarmi. Oh, Altezza, la regina si è ripresa. Non temete per la sua salute. In poche ore ci preparammo per la partenza. Pensavo, ma senza osare essere ottimista, che la regina avesse persuaso Filippo a rimanere in Spagna. Della stessa opinione erano Beatrice de Bobadilla, la mia fedele dama di compagnia, e anche Madame de Halévin. Quest'ultima si mostrò persino scontenta e di malumore, perché l'idea non le piaceva per niente. Beatrice e io invece ci dedicammo a immaginare la portata di una simile decisione e occupammo tutto il tragitto a discutere il modo migliore per trasferire i bambini, quale palazzo sarebbe stato più indicato per fissarvi la nostra residenza e chi doveva far parte del nostro seguito. Il mio animo non poteva essere meno disposto ad ascoltare la notizia che mi avrebbe dato Filippo. Notai subito il suo sguardo schivo, la tensione del suo corpo. In pochi giorni il suo volto si era affilato, percepii appena un'ombra della dolcezza con cui ci eravamo salutati quando, dopo avermi dato il benvenuto, volle che restassimo soli. Nonostante mi fossi seduta accanto al camino, cominciai a sentire freddo. Fece un lungo giro di parole per spiegarmi la sua decisione di partire. A mano che le sue parole facevano crollare le mie speranze, l'ira si scatenava dentro di me come una tromba d'aria e quando parlai le parole uscirono dalla mia bocca come lance. Così ripagava la mia fedeltà, lui che tanto difendeva le sue. Non ero forse io la persona che meglio poteva valutare la forza e la resistenza del mio corpo? Perché si preoccupava tanto per la mia salute se questa prudenza non aveva fino ad allora fermato i preparativi per il nostro viaggio? Se pensava che le ragioni dei miei genitori fossero tanto sensate e valide, perché non aspettava anche lui in Spagna la nascita di nostro figlio. Mancavano soltanto 2 mesi. Se invece ci separavamo adesso, Dio solo sapeva quando avremmo potuto riunirci. Non avevo forse mostrato pazienza per più di un anno, quando lui aveva posticipato di mese in mese il viaggio in Spagna per l'investitura delle Cortes. Da dove gli veniva questo bisogno impellente, se non gli importava di tenermi lontana da lui, dai miei figli e sotto la potestà dei miei genitori? Non si rendeva conto di quanto mi mancassero i miei bambini? E se fossi morta di parto? Mi muovevo da una parte all'altra come un pendolo e non riuscivo a tacere. Dalle domande cui non rispose, passai agli insulti, ben decisa a farlo reagire. Lo chiamai inetto, debole, stupido, incapace di assumersi il peso di un regno. Che cosa erano i suoi piccoli Paesi Bassi in confronto alla potenza della Spagna? Non era altro che un borioso, non era in grado di elevarsi dalla sua pochezza per prendere quello che il destino gli offriva. Ammutolito, Filippo mi guardava seduto su una poltrona vicino al fuoco. Il suo silenzio ravvivava la frenesia della mia disperazione e la mia impotenza. Avrei voluto sbattere la testa contro il muro, battere i piedi, distruggere tutto. Non riuscivo a rassegnarmi all'idea di rimanere in Spagna senza Filippo. Sotto l'assalto della mia rabbia, la paura si spandeva come un lago che si alzava di livello e minacciava di affogarmi. Avevo la certezza che quando fosse partito i miei genitori si sarebbero impadroniti di me e mi avrebbero mosso come una pedina su una scacchiera. Avrei avuto meno libertà della più miserabile delle mie schiave. Avevo gli occhi spalancati da un timore che non riuscivo a controllare. Vedendomi persa, mi inginocchiai davanti a Filippo e mi aggrappai alle sue gambe, supplicante. Arrivò il turno della sua rabbia quando mi vide perdere la compostezza e l'arroganza. Mi spinse da una parte, mi disse che odiava tutto quello che io rappresentavo, il mio paese arido e tenebroso di monaci sanguinari e di nobili subdoli e fatui, di ignoranti e di assassini. Come potevo parlare io se il trono che avrei ereditato era usurpato? Costruito sull'inganno, benedetto da papi lascivi, se i miei genitori governavano perché erano dispotici. Non mi rendevo conto di quanto fossero odiati dalla stessa nobiltà che li circondava. Non aveva mai visto una corte tanto piena di intrighi e di slealtà, tanto predisposta alle pugnalate e al tradimento. E lui non avrebbe permesso che uccidessero altri suoi amici e soprattutto che uccidessero lui. Per realizzare i propri piani, mio padre avrebbe eliminato chi si fosse interposto sul suo cammino. Soltanto io mi rifiutavo di vedere le distorsioni della sua mente. Lui non sarebbe ritornato in Spagna come agnello sacrificale. Si sarebbe prima fatto degli alleati che potessero proteggerlo. Non mi rendevo conto che mio padre ci avrebbe sacrificati entrambi, anche se con gli occhi annebbiati dalle lacrime. Non era stupido il mio Filippo. Tempo dopo ripensai spesso alle sue parole, ma quel giorno mi suonarono terribilmente ingiuste. Mi gettai a terra, mi tappai le orecchie. Gli gridai di andarsene, che non volevo vederlo un istante di più, che andasse a caccia o a bere con i suoi francesi, con quei fannulloni come lui, buoni soltanto ad adornare salotti e a ballare basse danse pavane. Così ci salutammo, il mio grande amore e io. Filippo se ne andò e io rimasi in Castiglia, desolata, carogna per gli avvoltoi.